Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Buona giornata da Luca Lorenzetti in studio per questa terza puntata de Le Marche Online. Vi ricordo, Le Marche Online è un progetto di ricerca che promuove i migliori siti internet che riguardano le Marche. L'Agenda Planning 2000, Le Marche Online, guida le Marche su internet, è giunta quest'anno alla sua seconda edizione ed è in vendita presso le migliori librerie della regione, proprio a partire da questi giorni. Bene, oggi parliamo di regione, dell'ente Regione Marche e di come è presente su internet. Abbiamo raggiunto in conferenza stampa l'assessore al sistema informativo della Regione Marche, Bruno Di Odoardo, al quale abbiamo chiesto quali sono gli interventi che la Regione ha programmato per intervenire fattivamente nel settore internet. Oggi che siamo arrivati a questo risultato, abbiamo avuto la convenzione con l'AIPA per muoverci all'interno di quelli che sono i sistemi informatici anche nazionali, per la compatibilità della nostra rete con la rete nazionale, con quella di altre regioni. Abbiamo sviluppato questa convenzione con le 5 regioni dell'Italia centrale, attraverso le quali anche lì studiare servizi da immettere che possono essere comuni tra le 5 regioni. E in più abbiamo iniziato a immettere all'interno della rete alcuni servizi avanzati, tra questi quelli che abbiamo presentato recentemente con quello del Giubileo per quanto riguarda l'offerta turistica per i pellegrini, così come abbiamo già adoperato la rete regionale per quanto riguarda il progetto Telus Terremoto, anche lì è possibile avere per gli utenti in tempi reali tutti quelli che sono i dati sulla ricostruzione. È sufficiente quello che abbiamo fatto? Io dico che nonostante che siamo avanti rispetto alle altre regioni, però questo ci stimola ad andare ancora più avanti, ci stimola a essere ancora più propositivi. Abbiamo la necessità che su questa rete comincino a non navigare, come dico, ma che vi siano però dei servizi reali che siano appetibili per il cittadino, per le imprese e per il terzo settore. E quindi è chiaro che su questo abbiamo la necessità che la pluralità dei soggetti che si stanno muovendo in questo momento e promuovendo a livello cittadino le pagine locali, le reti civiche o le reti provinciali, che i diversi soggetti istituzionali nel loro complesso facciano un passo avanti. Allora su questo proporrò alla giunta regionale nel prossimo mese di gennaio la possibilità di arrivare a una tavola rotonda aperta a tutti i soggetti, pubblici e privati, per vedere quali sono i servizi reali che possiamo immettere all'interno della rete e quali sono le forme per arrivare a fornire i servizi reali. Bene, ringraziamo l'assessore Bruno Di Odoardo per la sua disponibilità e vi rimando alla prossima puntata. Avete ascoltato Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Musiche di Giacomo Caliolo, Raffaele Mazzei e Piero Trofa. Consulenza musicale Raffaele Mazzei. Un programma a cura di Luca Lorenzetti.